9 in punto, la versione di Oscar. Cari ascoltatori, buon lunedì 31 di ottobre, oggi Santa Lucilla, una settimana che in Italia è contrassegnata dai tempi lenti, appunto, del ponte di oggi, ma che in realtà per quello che riguarda l'euroarea, l'economia mondiale, non lo è affatto. Siamo a pochi giorni dal G20, nel quale molto prevedibile, di nuovo i grandi del mondo volgeranno il loro indice accusatorio verso l'Europa e un pochino in più verso l'Italia, oramai accusati entrambi di non rendersi conto di essere una miccia sempre più corta sul ritorno all'esplosione del double dip, di una recessione di tutti i paesi avanzati, frutto dell'instabilità dell'eurodebito, e noi come primo euroemittente al centro dell'accusa. È ovvio che quando alla fine settimana avete letto sui giornali del contingency plan, cioè del piano di emergenza di sostegno che studiano al fondo monetario per intervenire nei tempi rapidi che sono consentiti al fondo monetario, mentre continuano a non essere consentiti all'FSF, al fondo europeo di stabilizzazione finanziaria, e il piano di sostegno di emergenza è verso Italia e Spagna, questo rende l'idea della gravità e della serietà con cui continuiamo a essere al centro dell'attenzione del mondo, considerati instabili, considerati un fomite, un generatore di contagio, considerati non all'altezza con le misure che abbiamo assunto per evitare che questo rischio si associ all'idea del nostro paese oggi nel mondo, nella comunità finanziaria. Quindi questo è un dato di fatto che credo dovrebbe indurre a riflettere chiunque comunque la pensi sul governo, sull'opposizione. Il dato di fatto è che agli occhi della comunità mondiale, e comunque la pensiate su ciò che ha generato la crisi finanziaria in cui siamo da 4 anni, noi siamo considerati a questa stregua, e rispetto a questo andrebbe parametrato tutto ciò che la politica italiana è in grado di fare o di non fare per allontanare da noi questa accusa, che io considero giusta e comprensibile, perché è un dato oggettivo che noi cresciamo così poco da 15 anni, è un dato oggettivo che abbiamo elevata spesa pubblica e pressione fiscale già, e ciò malgrado siamo arrivati nell'ultima asta, quella di venerdì scorso, al record dal 97 sui tassi, sul rendimento, voglio dire, del nostro titolo decennale BTP, con oltre il 6%, e questo significa che i mercati danno esattamente il giudizio che vi ho detto. Su questo le polemiche che si sono accese in questi ultimi giorni, come puntualmente avevamo previsto, sono sul pacchetto licenziamenti liberi oppure no. Siamo al punto in cui si è invertita la battuta che fu di Antonio Di Pietro qualche settimana fa, e all'epoca il centrodestra lo attaccò durissimamente. Ricordate quando Di Pietro disse qui ci scappa il morto a proposito della protesta sociale? Adesso è stato il ministro Sacconi a dire qui ci scappa il morto, evocando le vittime del terrorismo che più volte hanno colpito dolorosamente, duramente gli esperti di diritto del lavoro che hanno lavorato esponendosi molto come Marco Biagi alla flessibilità del mercato del lavoro. Tutto si è centrato su quello. Naturalmente i capitoli come la riforma, l'azzeramento della pensione di anzianità, il riequilibrio fiscale per più crescita e meno peso fiscale su impresa e lavoro, giovani e donne, meridionali, tutto questo non sono al centro. La questione è diventata quella del licenziamento sì, licenziamento no. Allora, in questo quadro in cui chiedo a voi ascoltatori, telefonate libere, diteci comunque cosa pensate di questi ultimi sviluppi, delle polemiche anche durissime nel centro-sinistra, per la Leopolda, e con Bersani che dice che le idee di flessibilità di Renzi sono usato anni 80. Bene, ma quali sono le altre idee della sinistra? L'usato anni 800? Della lotta di classe? No, perché io stima per Bersani, non Vendola, però la radicalizzazione a cui si assiste nel campo del centro-sinistra per effetto dei toni polemici e non dei provvedimenti assunti dal centrodestra, anche quella non fa ben sperare. Concludo questa nota, che non c'entra niente con ciò che affronteremo invece nella nostra puntata, con un editoriale che mi ha fatto oggi riflettere molto, quello di Luca Ricolfi. Sapete che considero Ricolfi un punto di riferimento innanzitutto della tecnica quantitativa con cui bisogna tentare di affrontare i problemi nel nostro paese. Il compito di chi maneggia i numeri è innanzitutto quello di dare un linguaggio condiviso per descrivere i fenomeni reali, poi vengono le opinioni dopo. E Luca Ricolfi in questi anni, con la squadra di giovani matematici che ha messo in piedi all'Università di Torino e che si occupa esattamente di questo e che offre degli spunti su come andrebbe estesa e approfondita la contabilità nazionale e il sistema statistico nazionale di rilevamento dei fenomeni economici e sociali del nostro paese, ha dato una grande mano su questo. Ecco, dice Luca Ricolfi molto amaramente, queste settimane stanno dimostrando che anche la convergenza che si era messa a punto negli ultimi mesi tra le forze sociali, tutte le cinque grandi sigle datoriali del nostro paese che hanno il 30 di settembre avanzato cinque proposte comuni per rilanciare la crescita italiana, e il fronte sindacale che coloro ha condiviso le riforme del mercato del lavoro in questi anni, esponendosi anche a dura polemica nei confronti della CGIL e della FIOM, tutta questa convergenza in realtà è una fuffa, perché in realtà poi vai a vedere l'Italia sulle cose fondamentali per la crescita è molto più divisa e corporativa di quanto non sembra, e dall'altra si capisce meglio così, perché il centrodestra con tutte le sue debolezze resta in piedi e il centrosinistra con tutte le sue arretratezze ideologiche non sia un'alternativa. Conclusione, dice su Repubblica Luca Cordero di Montezemolo, seguite questi cinque punti che vi dico io, facciamo un bel governo di salvezza nazionale, e dopo anche lui dice né destra né sinistra, ma la via è quella di Luca di Cordero di Montezemolo, che nella sua saggezza e esperienza ha capito tutto di come si fa da solo. Ma io sono molto scettico su queste vie, perché credo che non c'è crescita e non c'è governo senza consenso, ma può essere che mi sbagli. Ma di questi capitoli della crescita, quello che mi sembra il meno comprensibilmente espunto dalla riflessione è quello che riguarda il gap più grave irrisolto in 150 anni di storia del nostro paese, cioè appunto quello tra nord e sud, perché poi il più della disoccupazione giovanile, e la maggior forbice verso il basso del reddito disponibile rispetto alla media del reddito del nostro paese, la maggiore distanza rispetto alla media del reddito dell'euroarea, eccetera eccetera, è un problema che nel nostro paese si legge qua pressoché esclusivamente alla luce del divario. E quindi oggi abbiamo organizzato una puntata, perché è uscito un libro che è un libro ancora una volta quantitativo, pieno di dati molto utili secondo me. Per questo esorto tutti a comprare questo libro. È un libro intitolato Al divario nord-sud in Italia, dal 1861 appunto al 2011, in 150 anni. È un libro che esce per i tipi di Rubettino, che è un editore che a noi liberali e liberisti è molto caro, perché pubblica molti titoli che altrimenti fosse stato solo per Mondadori o RCS e Inaudi eccetera non avremmo nel nostro paese, per noi povere quattro mosche liberali e liberisti. E gli autori di questo volume, che ripeto è innanzitutto utile perché mette in colonna e organizza in maniera sintetica e anche molto agile una vastissima bibliografia che trovate poi riccamente richiamata su tutti i maggiori lavori usciti negli ultimi anni, che organizzano serie statistiche intorno agli indicatori sociali ed economici del nostro paese e comparati, e quindi è un manualetto da questo punto di vista da tenere in tasca per tentare di capire che cosa è davvero avvenuto nella geografia economica e reddituale del nostro paese. Sono Vittorio Daniele e Paolo Mananima, e che abbiamo invitato qui con noi per riflettere un pochino su tutta questa batteria di numeri, nonché poi alla fine anche sul come mai questo capitolo del mancato appianamento di questo gap sia così ricorrente e centrale anche oggi nel dibattito pubblico, per l'assenza ovviamente. Allora, buongiorno e grazie innanzitutto a Vittorio Daniele. Buongiorno. E a Paolo Mananima, buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo da alcuni dei paradossi iniziali che voi richiamate e documentate nel volume, che sono quelli, diciamo, che alimentano negli ultimi anni, mentre ci avvicinavamo al 150esimo, alimentano un bel po' di letteratura revanchista meridionalista, cioè sono quelli famosi indicatori per i quali all'inizio, e anche devo dire nei primi censimenti fino al solo quello del 1861, ma fino al 1881, cioè fino a che arriva l'industrializzazione, la prima industrializzazione che cambia un po' il volto economico del paese alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, questo era un paese che la parte più urbanizzata ce l'aveva al sud e la parte più industrializzata ce l'aveva al sud. Anche voi pubblicate queste cose, ma spiegate che forse è un paradosso, è un po' apparenza più che sostanza, oppure no? Chi comincia a rispondere? Daniele? Rispondo io, anche se il professore Mananima è molto più esperto Allora però facciamo rispondere il professor Mananima. Benissimo, Mananima. Dunque, la discussione sui primi anni dell'unità è una discussione che è cominciata più di un secolo fa, un secolo e mezzo fa, e sulle distanze nord e sud nei primi decenni dopo l'unità ci sono state infinite discussioni, e continuano ancora oggi queste discussioni sulle differenze fra le due parti del paese. Certamente a quell'epoca c'erano delle differenze per quanto riguarda alcuni indicatori sociali, sociali che sono importanti quando si esamina un processo di crescita economica. Quindi indicatori sociali come la mortalità infantile, la statura delle reclute, soprattutto l'alfabetizzazione, indicano un qualche vantaggio da parte del centro-nord. Centro-nord soprattutto per l'alfabetizzazione era più avanzato del sud delle isole. Perché invece quanto a mortalità infantile, per esempio l'Emilia Romagna batteva tutti. Ecco, sì, però è il caso di una regione. Se prendiamo il sud, considerando il sud quello che è nei confini attuali che si usano, il sud aveva comunque un primato, ecco, in questo rispetto al nord. La mortalità infantile era più elevata nel sud di quanto non fosse al nord. Grosso modo però in tutta Italia un bambino su 5 moriva nel primo anno di vita. Si trattava di un'Italia, insomma, che aveva degli svantaggi rispetto ad altre nazioni europee che si andavano modernizzando a quell'epoca. C'erano quindi dei vantaggi potenziali del nord per quanto riguarda alcuni indicatori sociali e che si potevano tradurre anche in vantaggi dal punto di vista economico. Se prendiamo però sulla base delle ricerche effettuate negli ultimi 2-3 decenni le indicazioni sul reddito medio della popolazione, questo in Italia era basso ovunque, sfiorava i 2.000 euro attuali all'epoca dell'unità e con un prodotto pro capite, un reddito medio così basso non c'erano grandi differenze fra nord e sud, questo sembrano indicare le ricerche più recenti. Io ripeto, per chi sta a casa i 2.000 euro di reddito a prezzo corrente, quindi attuali, vanno intesi come reddito annuo? Come reddito annuo. C'erano quindi delle potenzialità favorevoli al nord, che erano la posizione geografica, la maggiore estensione della rete ferroviaria e questi certamente erano dei vantaggi possibili. C'era anche tutta un'industria, l'industria della seta, che era molto importante in tutta l'area padana e che era assai più sviluppata di quanto non fosse al sud. Ecco, quindi indicatori sociali davano un qualche svantaggio relativo del mezzogiorno, dal punto di vista del prodotto pro capite e del reddito medio annuo, ovunque si aveva un reddito intorno ai 2.000 euro attuali. Differenze fra nord e sud da questo punto di vista non c'erano o erano comunque molto, molto ridotte. Ma invece poi è l'industrializzazione che, diciamo, fa piazza pulita anche di statistiche per le quali nei primi 30 anni dell'unità sembra che la Calabria sia praticamente la regione più industrializzata d'Italia. Voi spiegate nel volume che il motivo per il quale nei primi censimenti unitari questo avviene è perché, insomma, c'era un rilevamento per il quale le donne che stavano a casa partecipando meno al mercato agricolo, quelle del sud, magari si arrangiavano qualche cosa che il rilevatore diceva, vabbè, tessile, si sta andando a fare, quindi lavora nell'industria. Questo lo dico perché chi è a casa, se spesso dal sud ci dice noi eravamo l'avanguardia industriale del nostro paese, sì, vabbè, però detto questo arriva poi la rivoluzione industriale e lì invece la forbice italiana si apre. E certo, il processo di industrializzazione a nostro avviso, come abbiamo rilevato e messo in evidenza nel volume appena pubblicato, è la causa essenziale del divario nord e sud. Quando si afferma un processo di industrializzazione che in Italia parte dagli anni 80 dell'Ottocento più o meno, l'industria moderna non può diffondersi su un territorio ampio come quello italiano dappertutto, si concentra in alcuni poli e quindi nasce un'ineguaglianza dal punto di vista dell'industria, che è il settore predominante dove maggiori sono gli incrementi di produttività. È questo, insomma, l'elemento centrale che determina un divario fra nord e sud, il fatto che l'industria si concentra in alcune zone del nord e questa concentrazione cresce su se stessa per diversi decenni, almeno fino alla Seconda Guerra Mondiale. È questo che a nostro avviso è poi l'elemento di base che produce una differenza consistente fra nord e sud. Professor Daniele, c'è una ragione tra le tante per le quali apprezzo anche il taglio, che è un taglio, ripeto, che ha una pluralità di livelli, ci sia la completezza numerica, statistica e bibliografica, ma è anche, insomma, un libro che si legge in maniera agevole per non addetti ai lavori. Nell'introduzione voi dite, ponendo la questione di fondo degli effetti che l'industrializzazione ha nell'ampliare delle divergenze geografiche, sociali e reddituali del nostro paese, da una parte, dall'altra, nel leggere le statistiche sulla riconvergenza, una volta che si è aperta la forbice, convergenza, cioè gli anni in cui si tenta di colmare questo gap, che sono praticamente solo i 20, 23, 25 anni del secondo dopoguerra, fino ai primi anni 70, perché poi il gap si riapre invece, e quando richiamate in sintesi nell'introduzione a questo punto dite, sì è vero, nel nostro paese c'è un grande, fervidissimo dibattito intorno al fatto che sia la politica la questione di fondo che deve dare la risposta di fondo, ma in realtà chi poi guarda le serie di lungo periodo dell'economia sa che al di là di tutte le illusioni della politica e del politico convinto di dare le migliori risposte e più degli incentivi e disincentivi che fanno la crescita o la decrescita o le convergenze nella crescita economica, sono questioni di lungo periodo che vanno al di là delle intenzioni, delle illusioni, delle ambizioni della politica, e quindi è su queste cose un po' più di lungo periodo che bisogna interrogarsi per capire come mai poi solo in 20 anni si concentra un recupero del gap che si apre con l'industrializzazione e che poi da metà degli anni 70 si riapre ed è quello qua sotto i nostri occhi. Ecco, se dovessimo pensare a quali sono queste tendenze di lungo periodo che sono ancora in atto al di là delle colpe dell'industrializzazione, non è una colpa un'accelerazione economica, tutte le accelerazioni economiche ampliano le divergenze, esattamente come la globalizzazione, facendo entrare centinaia di milioni di persone, oggi ha reso più evidente agli occhi di tutti le divergenze nella distribuzione, per così dire. Ma oggi quali sono le tendenze di lungo periodo che si leggono nel fatto che dopo il 75 il gap è rimasto così aperto? Guardi, innanzitutto, come ha detto il professor Malanima, il problema del divario che caratterizza il processo di sviluppo economico nei 150 anni dall'unità nazionale nasce per ragioni diverse. Le differenze nord-sud sono nel 1861 molto modeste, molto contenute, noi stimiamo che fossero dell'ordine del 5-7, non più del 10%, e questa era la dimensione del divario nei redditi pro capite che noi stimiamo per il 1891. È possibile che fosse anche questa, diciamo così, la situazione iniziale, o che addirittura nel 1861, la data dell'unità, fosse ancora inferiore. Ha detto lei in realtà che questo divario si evidenzia, diventa netto alla data nei primi anni del Novecento, quando ormai l'Italia ha intrapreso il percorso di crescita moderna, e poi abbiamo mezzo secolo e oltre di crescita dei divari. Nel 1951 il divario nord-sud è massimo, dopodiché c'è una fase di convergenza. Anche su questo naturalmente le interpretazioni degli studiosi sono state diverse. Noi crediamo che alla base di questo fenomeno abbiano agito alcune forze, come ha detto lei, delle forze fondamentali, nel senso di forze economiche. E tra queste ci fu il cambiamento strutturale che l'Italia in una fase di crescita, soprattutto negli anni 60, subì, cioè in quegli anni una parte assai consistente della forza lavoro sottoccupata o disoccupata in agricoltura passò all'industria, ci furono fortissime migrazioni, oltre 4 milioni di meridionali lasciarono il mezzogiorno per dirigersi prevalentemente verso il nord, e questo fattore fu un fattore di riequilibrio delle condizioni economiche regionali. Accanto a questo probabilmente agì anche in maniera significativa lo sforzo che venne fatto soprattutto nei primi anni 60, ma anche già dalla fine degli anni 50, di dotare il mezzogiorno di infrastrutture, di strutture importanti, ma anche di far crescere la base produttiva delle regioni meridionali. Insomma, furono gli anni della cassa per il mezzogiorno e furono gli anni dell'industrializzazione forzata, diremmo, del sud. Questo processo di convergenza si interrompe nei primi anni 70. Che cosa cambia? Cambia innanzitutto il modello di sviluppo economico del paese. L'Italia diventa gradualmente una nazione post-industriale, cioè la quota dell'occupazione, la quota relativa dell'occupazione nell'industria comincia a ridursi, il settore dei servizi cresce sempre di più, cioè quel processo di trasformazione strutturale continua e rende l'Italia simile nella sua struttura produttiva a tutti gli altri paesi avanzati. Rallentano i tassi di crescita del nostro paese, cioè la crescita media annua del prodotto interno lordo comincia a ridursi, cioè l'Italia è un'economia avanzata, matura per così dire. Nel quadro del dualismo economico italiano accade che il Mezzogiorno diventa un'area, per così dire, dalla struttura produttiva simile a quella delle economie più avanzate, cioè diventa anche lì un'economia terziaria, l'economia del Mezzogiorno, ma il dato fondamentale è che diventa un'economia post-industriale senza mai essere stata un'economia industrializzata. Da allora il divario si mantiene stabile e in alcune fasi addirittura aumenta. Quali tendenze di fondo allora? Le tendenze di fondo che si possono leggere è che nel Mezzogiorno non ci sono, a mio avviso, non c'erano, continuano a non esserci dei vantaggi localizzativi per l'industria che possano compensare o più che compensare gli svantaggi localizzativi che invece sono presenti. Questi svantaggi sono molti e noi abbiamo posto l'accento su un aspetto che sembra può sembrare trascurabile o che meglio è stato trascurato, cioè quello della perifericità, non solo economica ma inizialmente soprattutto geografica del Mezzogiorno rispetto al resto del paese, rispetto al resto d'Europa. Qui la fermo un secondo, aspetti, la fermo perché andiamo in pubblicità, riprendiamo da questo apparente paradosso come trasformare la perifericità in un punto di forza invece che in un punto di debolezza. Eccoci, tornati in studio, eravamo arrivati a indicare alcuni delle possibilità perché diciamo dalle debolezze si possa passare di nuovo dei punti di forza per colmare il gap. Stiamo parlando di un libro, Il divario nord-sud in Italia, che presenta molti dati dal 1861 a oggi. Sono con noi i due autori, Vittorio Daniele, che insegna economia politica a Catanzaro, e Paolo Malanima, coautore del libro, che è direttore dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del CNR, tra l'altro. Allora, Daniele, l'avevo interrotto su fare della perifericità un punto di forza nuovo invece che di debolezza. Sì, ma insomma volevo concludere questo aspetto. Perifericità geografica è stata secondo noi determinante nella formazione del divario. Questa perifericità geografica è rimasta a lungo ed è stata aggravata dalla mancanza di infrastrutture che hanno appunto aggravato la perifericità ed non hanno consentito al Mezzogiorno di integrarsi pienamente all'interno di un mercato nazionale e internazionale più vasto, e questo è stato un aspetto cruciale per molto tempo e per alcuni versi lo è ancora. A fronte di questo ci sono altre diseconomie alla localizzazione industriale nel Mezzogiorno: mancanza di infrastrutture, inefficienza burocratica per molti versi ancora più grave rispetto al resto del paese, e poi presenza di criminalità, eccetera. Molte di queste cose le conosciamo bene. E capitale umano, anche qui continuano ad esserci differenze rispetto al resto dei paesi europei più avanzati, ma anche rispetto al nord. Allora, una serie di diseconomie e di svantaggi, io mi chiedo: qual è stata finora la politica prevalente per affrontare questi svantaggi, cercare di ridurli e quindi consentire al Mezzogiorno un processo di sviluppo, come si dice, autopropulsivo? Allora, la politica prevalente è stata quella degli incentivi. Aspetti, è però, una politica che non è riuscita a rimuovere quei fattori di svantaggio. Aspetti, su questo, prima di arrivare a dare un giudizio sugli incentivi e le centinaia di misure tra regionali e nazionali che governano e disciplinano e articolano, strutturano il sistema poi degli incentivi. Noi sappiamo che viviamo in un paese in cui sono oltre 1700 le forme, tra sommando gli incentivi regionali e quelli nazionali a titolo vario e diverso. I più di quelli che vanno al sud sono ancora oggi non a fronte di una capacità di esame preventiva di progetti e di una capacità di esame nel tempo della loro realizzazione, ma sono spesso a fondo perduto. Quello che si è fatto nel tempo è di tentare di passare da procedure puramente discrezionali a procedure un po' più automatiche come quella 488, ma nella realtà, prima di arrivare a dare un giudizio su questo, tentiamo un giudizio su una delle stagioni che poi seguì a quella della fine dell'intervento straordinario, la fine dell'intervento straordinario che a propria volta veniva dopo 20 anni in cui la grande forza propulsiva della vecchia cassa era venuta meno, era diventato occupazione di potere e clientela. Ma all'inizio degli anni 90, quando si dovette per forza avviare una rivoluzione dei conti pubblici, le privatizzazioni e così via, si è tentato un modello nuovo, quello delle politiche di coesione, che appunto facendo stato della sconfitta dell'ultima fase dell'intervento straordinario centralizzato, scommetteva invece sulle classi dirigenti, burocratiche, amministrative locali. In realtà, quando Fabrizio Barca guidava le politiche di coesione al Ministero del Tesoro, Fabrizio Barca, quindi un Ciampi Dei, Banca d'Italia e così via, per alcuni anni noi abbiamo molto creduto alla possibilità che lo sviluppo autocentrato si facesse scommettendo sulla capacità della politica e soprattutto della pubblica amministrazione locale delle regioni del sud di fare tutto ciò che si imputava e la politica nazionale oramai fosse distratta e non volesse fare o non potesse più fare, non sapesse più fare. Nella realtà poi il bilancio di questa scommessa sulla capacità autonoma di fare selezione di merito dei progetti incentivo a merito a fronte di progetti industriali e così via si è determinata e si è presentata con un bilancio che complessivamente è inadeguato, tant'è che oggi siamo nella lettera scritta a Bruxelles col primo punto, quello Eurosud, che prega in ginocchio di prestare credito a questo paese, che dice stiamo perdendo un mucchio di risorse per il sessennio 2007-2013 perché non abbiamo la capacità di spendere, non abbiamo la capacità di spendere perché più delle volte sono le regioni del sud che sono indietro per pacchi di miliardi rispetto ai fondi di coesione perché non hanno saputo avviare le procedure necessarie per spendere e li perderemo una volta per sempre. Allora la domanda per il professor Malanima è: questa stagione perché si è rivelata una illusione rispetto alla capacità autonoma decentrata del Sud di fare di procedure più rigorose per un governo di incentivi però che per la parte europea era di molte decine e decine e decine di miliardi, in realtà si è tradotta poi in una rivoluzione fallita, professor Malanima? Ma l'impressione che ho è quella di una inefficienza che si cumula al ritardo economico che si è avuto nel mezzogiorno. Il ritardo economico significa anche minore efficienza e l'efficienza è una cosa importante in questi processi di crescita. Attualmente, se guardiamo la situazione del mezzogiorno, non sembra naturalmente vicina una fase simile a quella che c'era stata negli anni 50, 60 e primi anni 70, quando il mezzogiorno aveva avuto la sua industrializzazione. Certo, quello che può essere fatto, e è importante che i politici tengano presente questo, è che si può elevare il livello di efficienza e questo significa modificare molte delle cose che caratterizzano il mezzogiorno. Nel settore, se oggi guardiamo nel settore dei servizi, che sono il settore prevalente sia nel nord che nel sud, il mezzogiorno ha un primato nei servizi che sono improduttivi. E questi servizi possono essere resi più produttivi. Nella pubblica amministrazione, per esempio, l'occupazione nel mezzogiorno in termini percentuali è superiore a quella del nord. Ecco, in questi settori occorre promuovere una maggiore efficienza, che significa aumento della produttività del sistema economico del mezzogiorno. Il mezzogiorno, sotto tanti punti di vista, oggi è una parte di un paese avanzato, ha avuto la sua industrializzazione e la sua fase di progresso, però ci sono degli evidenti elementi di inefficienza se facciamo il confronto con il nord. Quindi c'è un problema generale, che è quello dell'economia attuale, di crescere l'efficienza che può promuovere una fase di crescita non come quella che l'Italia ha avuto all'epoca della sua industrializzazione, ma comunque che può migliorare la posizione dell'Italia nel contesto internazionale. Quindi il problema della crescita e dell'efficienza è un fenomeno che riguarda tutta l'Italia, riguarda in modo particolare il Mezzogiorno, che da questo punto di vista, come lei ricordava poco fa, ha degli elementi di efficienza anche nell'utilizzo delle risorse che pure ha a disposizione. Allora, io prego Malanima e Daniele ora di ascoltare un po' di telefonate di ascoltatori, vi avviso saranno telefonate un po' su tutte le cose che sono aperte nel dibattito economico italiano adesso, ma poi alla fine voglio riporvi il problema di che cosa ci insegnano invece le esperienze degli ultimi 20-30 anni, cioè non storie lunghe ma storie brevi dal punto di vista della storia economica, delle capacità messe in atto da paesi come la Germania o come la Spagna, dove c'erano forti differenziazioni di reddito pro capite, di produzione industriale pro capite eccetera eccetera, di produttività pro capite, eppure esperienze di paesi dell'area continentale europea, quindi a noi affini come modello di welfare, impostazione di spesa del bilancio pubblico e così via, e che però hanno dato una dimostrazione di saper dare risposte in unità di tempo brevi a problemi storici lunghi di gap accumulato. E su questo, se c'è qualcosa da imparare e che cosa nel nostro paese, nel nostro ordinamento, alla luce anche dell'attuale offerta politica, che purtroppo è un punto di debolezza, di sicuro non di forza. Ma torniamo con Daniele Malanima dopo un po' di voci di ascoltatori. Cominciamo con Ingrid che ci chiama da Cosenza, prego. Buongiorno, grazie per avermi richiamata. Io non ho letto il libro, quindi non posso intervenire in merito a quello che sicuramente leggerò quando l'avrò acquistato, però vorrei testimoniare un po' quello in breve un po' il dramma della Calabria. Innanzitutto inviterei un po' tutti a venire a fare quello che io chiamo un confino in Calabria, non so, qualche mese. Per rendersi conto personalmente, lei dice. Prego. Per rendersi conto personalmente. Personalmente di quale sia il dramma della Calabria, no? Ma in estrema sintesi la situazione è questa, dal mio punto di vista. Innanzitutto negli ultimi anni l'unico, chiamiamolo tra virgolette, sviluppo che si è visto in Calabria è quello del cemento. Non esiste altro, non esistono infrastrutture, quel poco che si è cercato di fare, venite a fare un viaggio sulla Salerno-Reggio Calabria e ve ne renderete conto, cemento depotenziato, spazzatura che si trova sotto le strade, e le inchieste ci sono state, ma chiaramente quello che si vede sono case e centri commerciali, non c'è altro, non ci sono potenziamenti di reti ferroviarie, stradali, non ci sono scuole nuove, è chiaro che ci sono sempre delle eccezioni, però io faccio un discorso più ampio e più largo. Sì. Non esiste la meritocrazia, è difficilissimo per chi non sia in qualche maniera allineato con un sistema emergere, giovani vanno via, io stessa che sono qua, spero prima o poi di potermene andare, perché tante energie spese qui sono assolutamente perse. Quindi lei non vede alcun reale motivo di ottimismo che la faccia indurre a pensare che le cose possono andare meglio? Io le spiego perché in un minuto, perché non riesco, ragionandoci, stando sul campo e ragionandoci, perché non vedo una via d'uscita. Però il dramma, se vogliamo sintetizzare il dramma calabrese, il dramma della Calabria è quello dei posti di lavoro. Ed è un dramma da sempre, che si è acuito con la pioggia di soldi e di finanziamenti che sono arrivati dalla Comunità Europea, che hanno dato ai politici locali un potere enorme, hanno decuplicato, forse di più, il potere che già loro avevano. Il controllo dei posti di lavoro è, non voglio dire totale, perché no, però insomma ci intendiamo. Anch'io sarei inserita in questo, io non lo sono, però chiaro, con le dovute eccezioni, con le punte d'eccellenza, con gruppi di persone che cercano di fare qualcosa per contrastare il sistema, il problema è il controllo totale dei posti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato. Allora Ingrid pone un problema su cui spesso torna per esempio Ivan Lobello, Cristiana Coppola, sto parlando di due figure molto impegnate in Confindustria Sud del Mezzogiorno, Ivan Lobello siciliano, dicendo attenzione, perché tutta la massa di incentivi e aiuti alla crescita, al di là di come poi venga utilizzato o non utilizzata per capacità tecnica, rischia di aggravare la potente presa di meccanismi devianti, siano essi quelli dell'economia criminale, siano essi quelli delle distorsioni, delle improprie commissioni tra politica, pubblica amministrazione e affari. E Ingrid ci dice che la leva degli aiuti europei ha decuplicato il potere della parte storta del potere in Calabria. Sentiamo Mauro da Monza. Mauro, prego. Sì, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Ma io quando sento tutti questi discorsi non capisco, non ci arrivo. Come mai tutti voi fior di economisti non cominciate a mettere sul piatto della bilancia tutto quello che viene rubato al nord e gettato al sud? Due esempi su tutti. Netturbini, Napoli 2000 unità, pardon, Milano 2.000 unità, Napoli 20.000. Veneto, Sicilia, costo dei dipendenti regionali, gli abitanti sono più o meno gli stessi, in Sicilia 11.6 volte quello che è il costo di dipendenti pubblici regionali del Veneto. Allora, fino a che i politici, i partiti nazionali non si metteranno in testa che per prendere i voti al sud non devono gettare i soldi delle mie tasse, io che lavoro a 31 ore alla settimana al nord, perché il lavoro è calato da 44 a 45 ore a settimana, lavoro 31 e il lavoro è corrispondente, la mia pensione domani sarà la stessa, sto mantenendo con i miei risparmi i dirigenti napoletani piuttosto che siciliani, piuttosto che anche calabresi, parlava di prima, volevano tutti, tranne la Lega Nord, tagliare le pensioni per sistemare l'Italia, quando abbiamo miliardi di euro gettati dalla finestra per stipendi veri con lavori finti. Grazie Mauro, che pone un altro problema, quello della scarsa disponibilità da una parte del paese finché non si incide sulle evidenti macro disparità di efficienza pubblica a fondo di dotazioni molto più pingui per apparati pubblici assai meno efficienti. Ecco, questo è un altro tema che ci trasciniamo, temo, come punto obbligato del nostro confronto. E sentiamo ancora rapidamente, credo su questioni diverse però, Tommaso che ci chiama dalla provincia di Foggia. Tommaso, prego. Sì, io volevo dire, signor Giannino, a proposito della BCE, delle raccomandazioni sull'Italia, ma come mai, voglio dire, in Italia abbiamo problemi più strutturali come l'evasione fiscale, come l'economia nera, della mafia, della criminalità, perché si attacca sempre sul solito punto? Cioè, voglio dire, in Francia ci sono situazioni ben più difficili per poter licenziare le persone, eppure la Francia a dettarci le regole a noi, voglio dire. Tommaso, che sa, però noi siamo diventati osservatori speciali perché siamo quelli col maggior debito pubblico e siamo i primi euroemittenti, quindi questa è la ragione vera per cui poi alla fine finiamo commissariati e finiamo col Fondo Monetario che deve preparare un contingency plan per l'Italia, non perché ci siano i cattivi, diciamo, perché i cattivi siamo noi e per buone ragioni purtroppo veniamo considerati cattivi, per ragioni oggettive, voglio dire, non perché c'è un mano, c'è una potente cospirazione di poteri dei Pluto Giudo Massonici, della finanza mondiale, del Fondo Monetario e dell'Unione Europea, che hanno torto a chiederci misure, tra le quali c'è anche la flessibilità in uscita come entrato nel mercato del lavoro, tra i tanti però, perché poi c'era la riforma delle pensioni che nella lettera di risposta italiana non c'è, c'era la dismissione, c'erano le privatizzazioni che nella lettera italiana è quantificata in 5 miliardi l'anno per 3 anni, mentre invece la soglia di abbattimento del totale del debito pubblico è di 100 miliardi in 3 anni richiesteci, ecco, e di questi 100 la risposta dell'attuale governo di centrodestra, parole liberale, liberista e per il mercato eccetera eccetera, invece di quei 100 miliardi si propone di farne solo 15 con dismissione, mentre invece ci ha appena detto un mese fa che ammonta a ben 500 miliardi la sola parte dell'attivo pubblico cedibile o che si può mettere a reddito di beni pubblici immobili ancora oggi. Eccoci tornati in studio, ci abbiamo ancora un ascoltatore in linea, Aldo, che ci chiama da Torino. Prego Aldo. Grazie per essere stato richiamato. Io ero d'accordo con lei, anche perché è il più grande economista che c'è in Italia. Per carità, no, non diciamo così, ma vada al punto. Il problema secondo me è che per la signora Calabrese di prima, io sono di Torino e a Torino non è che stia così bene. Il problema dei licenziamenti è un problema che fino a un certo tempo fa le davo ragione, adesso mi sono trovato in una situazione in cui io ho mio figlio ingegnere e in una grande azienda fanno di appoggio ad una altra grande azienda torinese, sì. E questi signori dicono dovete lavorare 10-12 ore al giorno, sabato, domenica, non parliamo di straordinari, niente, ad uno stipendio che per un ingegnere è minimo. Si immagina nel momento in cui passasse il discorso dei licenziamenti che cosa succederebbe, cioè c'è il pro e il contro, non deve essere a favore per le aziende, per la gente che non lavora, e allora si troverebbero dei problemi perché chi entra ha detto beh, ho messo tutto calcio, ho finita lì, non faccio niente tutto il giorno, ma per gente che lavora e che dà il proprio imprimatur a delle un know-how particolare e specifico. C'è poi il discorso dello sfruttamento, cioè è un problema secondo me il licenziamento. No, Aldo, io guardi, ho capito, certo che è un problema, però noi stiamo vivendo, per così dire, l'irriformabilità da decenni di questa soglia dei 15 dipendenti che abbiamo introdotto in altri tempi e per altre ragioni, e la stiamo riproducendo come una specie di il Mar Rosso che divide l'armata del faraone da Mosè la terra promessa, ma che è veramente una cosa singolare per me, lo dico in termini comparati. La questione è: esiste un minimo di credibile serenità tra tutti, esperti del settore, economisti d'impresa, esperti di diritto del lavoro, gente che abbia sotto la punta delle dita, insomma, la realtà comparata dei diversi ordinamenti in materia di flessibilità in entrata come in uscita a fronte dell'altro problema, che è connesso, inevitabilmente connesso se uno è serio, che è quello della modifica, dell'aggiornamento dell'intero quadro degli strumenti integratori del reddito e a sostegno del reddito, non del lavoro com'è e dov'è, che è il classico errore che commettiamo in Italia, ed è un errore figlio degli anni 70 in cui eravamo convinti che una volta che aperti gli stabilimenti industriali c'era solo il cattivo imprenditore che poi alla fine voleva delocalizzarli o chiudere, ma altrimenti il lavoro c'era. È finito quel mondo lì. Nel mondo di oggi la flessibilità è un valore, per me sì. È un problema il fatto che non abbiamo integratori di reddito capaci di difendere il reddito e la capacità di generarlo del lavoratore nel capitale umano nel tempo, e vogliamo invece difendere il lavoro dov'è e com'è con le vecchie casse integrazioni ordinarie e straordinarie che per fortuna abbiamo esteso. Anche a questa la mia risposta è sì, ragionevolmente dovremmo fare entrambe le cose. Ci riusciremo? No, perché continuiamo a dividerci con botte demagogiche per dire che il problema non si tocca perché il nemico è nell'altro campo. Lo fa spesso la sinistra, è un pezzo del sindacato, questa volta l'ha fatto il ministro Sacconi, perché il mio giudizio su questo è fuori dai denti. Io che voglio la riforma so che se dico che chi non la pensa come me è un terrorista, sto prendendo consenso elettorale, e lo dico con la morte nel cuore, perché di Maurizio Sacconi io ho un'elevatissima stima, in questi anni ha fatto cose positive, cose buone e a testa politica. La mia opinione è che così noi facciamo solo fuffa e allontaniamo la risoluzione dei problemi, ma questa è la mia opinione personale, che sono l'ultimo dei cretini. E l'ultima mia domanda al professor Malanima è: professore, alla luce di questo, diciamo, dibattito pubblico italiano, divisioni nord, sud, ha sentito anche gli ascoltatori, poi come noi le tasse, lì ci sono tanti dipendenti pubblici, con una prospettiva seria, alla fine del vostro volume voi qualche spunto lo date, anche se il volume è per accumulare dati, non tanto per ergersi a politici che devono dare soluzioni, ma in realtà l'esperienza degli altri nel colmare il gap in unità temporali limitate, come spagnoli e soprattutto tedeschi, che cosa ci dovrebbe insegnare? Ci può insegnare qualcosa? Ma io intanto rilevo prima di tutto il pessimismo di queste telefonate che abbiamo ascoltato, che individuano tante cose importanti, ecco, della situazione del Sud. Forse il pessimismo in qualche caso sembra eccessivo, ma comunque il fatto della presenza di criminalità, la presenza di un settore dei servizi sovradimensionato, non sono d'accordo sul tema che sollevava uno degli ascoltatori riguardo al furto da parte del Sud nei confronti del Nord, insomma questo mi sembra eccessivo. Certamente quello che è stato rilevato tante volte da studiosi, economisti e uomini politici a proposito del mezzogiorno, del nostro mezzogiorno, è l'effetto perverso che hanno avuto i finanziamenti locali. A pioggia. Cioè, questo è stato sottolineato tante volte da quello che è il presidente della Svimez oggi, Adriano Giannola, un economista. No, noi facciamo almeno un programma l'anno con il rapporto Svimez, quindi su questo ci stiamo sopra. Dalla Germania niente di importabile? No, dalla Germania quello che bisogna importare è l'aumento dell'efficienza del sistema. E su questo quindi io, nel sperare che tutti vogliano comprare questo libro, comunque più lettori per il libro di Vero Nord Sud in Italia, gli autori sono Vittorio Daniele e Paolo Malanima, sulla conclusione importiamo più efficienza nel pubblico come nel privato, tante volte ne abbiamo parlato e credo che sia una buona soluzione. A Linea Generale Radio, appuntamento a domani.